Radio Beograd, prvi program. Radio Zagreb, Sarajevo, Titograd i Novi Sad. Veselo veče. Za službena putovanja koristite prednosti prevoza avionima JATA. Novo imenovanog, izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Sovjetskog saveza u Jugoslaviji. Sve mladiće volim, kako da odolim. Zeleno tražim. Mi smo more krvi proljeli za bratstvo i jedinstvo naših naroda. Utakmica između Partizana i Hajduka. Raz, dva, tri, majčeki! Plamene zore, Balkan Rock, Kudeverista, Sumaj Radio, Fabrična jutra, muzika, pop kultura e curiosità dal mondo jugoslavo. Dobar dan svima, allora ciao a tutti, non ci siamo sentiti per ben due settimane, quindi siete tutti quanti a casa che non vedevate l'ora di ascoltare Balkan Rock. Siamo nel nuovo studio, in uno studio bellissimo, e quindi colgo l'occasione per ringraziare tutti quelli che hanno lavorato alla risistemazione dello studio di My Radio, e non solo, perché quest'oggi non siamo soltanto io e Dusko, ma ci sono anche Federico e Antonio di Occhio sul Cinema. E abbiamo gli ospiti della trasmissione cinefila di My Radio, quindi parleremo un po' del cinema jugoslavo oggi pomeriggio. Esatto. Per non farci mancare niente è venuto anche a trovarci Stefano, quindi salutiamo anche Stefano e tutti i redattori di My Radio all'ascolto. E quindi sì, come diceva Dusko, oggi parliamo di cinema, in un'ora non possiamo essere esaustivi né esaurienti, solo esauriti al massimo, proprio volendo, e non possiamo sicuramente raccontarvi quello che è tutto il cinema jugoslavo. Partiamo un po' da quelle che sono le nostre preferenze, dai film che abbiamo visto, perché insomma... Ma sì, quelli che abbiamo visto di recente, magari affrontiamo giusto due o tre correnti più famose del cinema jugoslavo. Quello appunto, il filone sulla resistenza, sulla seconda guerra mondiale, poi quello dell'onda nera, del Trenitalas, no? E poi, vabbè, qualche film, adesso non mi ricordo cosa abbiamo in scaletta, qualche grande classico, non so, Kusturica, piuttosto che... Sì, grandi classici che comunque gli evergreen che non passano mai di moda. E state ascoltando tra l'altro in base la colonna sonora di Prima della pioggia, Before the Rain, di un regista macedone che si chiama Mancevski. Anche questo è un film molto bello che consigliamo di vedere. E, sì, tristi, cioè alla fine muoiono tutti in pratica. Bene. Vi ho fatto uno spoiler. Padule. Va bene, allora se siete tutti d'accordo io andrei a partire con il primo pezzo, il primo pezzo che poi spiegheremo il perché della scelta di questo pezzo. Lei è Olivera Vucio, anche conosciuta come Olivera Catarina, e questo è Gelem Gelem. Romole, ay, Romole, vuole, hai già vuole, a traven amore già vuole, andare a tare buttare, a traven amore già vuole. Andare a torre bucare, ai romale, ai giovane, ai romale. Dicendo, stavi commentando e adesso ti defenestriamo quella gnocca della Olivera Vucio Catarina. Sì, era uno dei sex symbol dell'ex Jugoslavia. Sì, una tipa venente, no? Con questo fascino un po' orientale, molto molto bella, e dai facili costumi, stavi dicendo, però, e dai facili costumi, da un certo punto di vista, chiaramente sì, relativo, sì. Sì, aveva, a lei piacevano gli uomini potenti, del potere, no? Aveva molte relazioni con ministri, non so, gente che stava in alto nel partito, e questo poi le è costato la carriera, perché poi per motivi che non ricordo ora, non mi ricordo com'era l'aneddoto, è stata emarginata, non ha più interpretato, si è ritirata completamente dalla vita privata, perché ha fatto probabilmente una qualche storia di gelosia o di contesa, una storia del genere. Comunque io voglio ribadirlo, perché l'ho già detto tante volte, ma adesso lo dico pubblicamente: secondo me lei è una delle donne più belle del mondo. Addirittura? Sì, secondo me sì. Vediamo una foto, perché qua io non so chi sia. Cioè, adesso mettiamo subito una foto. Guardiamo. Per i nostri radioascoltatori. Hai stuzzicato la curiosità dei maschietti in studio. Esatto. Va bene, mettiamo subito una foto, così. Anzi, adesso faccio un poster e lo mettiamo qua in redazione. Così, così, va bene. Così, sì, adesso adesso è troppo grigio lo studio. E infatti. E allora appunto lei era Olivera Caterina Vucio, che tra l'altro non è solo cantante ma è anche attrice, infatti soprattutto nei primi film di Petrovic, in questo film che si intitola Scupiglia Ciperia, che in italiano è stato tradotto con Ho incontrato anche Zingari Felici, ha proprio recitato una delle parti protagoniste. Aleksandar Petrovic, uno dei diciamo dei capisaldi del Cernitalas del film jugoslavo, quindi di questa onda nera di cui magari accennerà più tardi Dusko, appunto ha secondo me, quindi i film che mi sono piaciuti più di più di questo regista sono appunto questo, Scupiglia Ciperia e Il maestro e Margherita. Scupiglia Ciperia è del 67 ed è vincitore del Gran Premio Speciale della Giuria al 20° Festival di Cannes, nominato anche all'Oscar come miglior film straniero. E la storia si basa appunto sulla vita di una comunità rom in un villaggio nel nord della Voivodina, mentre invece Il maestro e Margherita è ovviamente, come potete immaginare, la trasposizione filmica del celebre romanzo di Bulgakov, ed è una coproduzione italo-jugoslava del 72 con niente poco di meno che Ugo Tognazzi. Ma dai, bene. Ugo Tognazzi che interpreta proprio uno dei personaggi il personaggio principale, il maestro. Il maestro è anche un altro cantante italiano. E pensate, le musiche sono di Ennio Morricone. Wow. Ma chissà se Custurri si sia ispirato a questo film quando ha fatto 20 anni più tardi. Come è tradotto in italiano? Dom Zavesciane? Il tempo dei gitani. Il tempo di... Grazie. Grazie. Ma qua Antonio è un posto di cultura, cioè. Non che conosca grazie il titolo. Adesso ecco. Immaginavo la tematica. Ti assumiamo come traduttore ufficiale di Balkan Rock. Quindi sappi che tutte le domeniche sarai occupato con noi. Ecco, infatti questo Scupiglia Ciperia è un predecessore un po' del tempo dei gitani. È vero, è vero. Beh, un po' sì, sicuramente. Comunque, purtroppo nella nostra classifica, perché abbiamo messo una classifica sul nostro gruppo di Balkan Rock, per sapere un po' quali sono i film preferiti dei nostri radioascoltatori. Con mio sommo dispiacere, Petrovic non se lo caca un po' nessuno, ecco, perché non lo so, a me piace moltissimo come autore, non so se tu, Dule, sei d'accordo con me. Non ho visto molte cose di Petrovic, quindi non ti posso dire. Forse perché io sono un amante del romanzo di Bulgakov, allora ho guardato il film un paio di volte. Però ho visto che sui vari siti online le opinioni sono molto molto basse, mentre invece a livello internazionale ha sicuramente ricevuto molti molti consensi Petrovic, che è un contemporaneo di Makaveyev. Di Makaveyev, sì, c'era questa corrente che poi dopo è stata chiamata l'onda nera, Cernitalas. Si distingue perché trattava i temi sociali, faceva della critica culturale, criticava anche il regime in modo più o meno diretto. C'erano, oltre appunto a Makaveyev, c'era anche Zhelimir Zhilnik, è più che altro un documentarista o uno degli ideatori della docudramma cosiddetta. Trattava, diciamo, i temi tabù nell'ex Jugoslavia degli anni 60, in cui il socialismo ormai era tra virgolette realizzato, quindi alcune tematiche non andavano toccate, i problemi della povertà che doveva essere estirpata, i senza tetto, i vari gruppi emarginati, eccetera. E quindi lui andava proprio lì, Gilni, che è stato proprio un, oggi diremo, un video attivista quasi, no? Un media attivista, un Beppe Grillo dei no, allora, se mi dici Zhilnik, no, Beppe Grillo, allora la no, finestra è già aperta, ci mettiamo un attimo no, ma a defenestrarmi. Esatto. Zhilnik, diciamo, faceva una critica da sinistra al suo paese. Sì, un po' come magari nel neorealismo italiano, nei film del neorealismo italiano, come quelli di Vittorio De Sica, che appunto mettevano in scena le problematiche sociali, ecco, questo rispetto... è già un paragone più azzeccato, più azzeccato. Sì, sì, sì. E comunque scusa se vi interrompo, non per portare l'acqua al mulino di Petrovic, ma anche Petrovic comunque dal suo punto di vista ha fatto una critica sociale a quello che era il regime comunista, perché in realtà l'ha fatto facendo parlare Bulgakov e non una sua opera personale, però tutti sappiamo che il romanzo di Bulgakov era esattamente quello che si può considerare la critica più feroce che conosciamo al regime. No, infatti, diciamo, quello che si è affermato di più a livello internazionale credo che sia proprio Makhachev, no? L'hai sentito? Sì, Makhachev, sì. Ecco, lui, sì. Diciamo, aveva nei primi film aveva questa fissa per un psicanalista austriaco, Wilhelm Reich, che aveva ideato, cioè aveva ipotizzato l'esistenza dell'energia orgonica, che dovrebbe essere la forza dell'energia sessuale, praticamente. Bello, interessante. Che quando viene inibita, diciamo, genera, non so, violenza, repressione, patriarcato. Adesso sto tagliando con l'accetta perché vabbè, non è giusto che sia preparato. Quindi tutti i suoi primi 2-3 film affrontavano queste tematiche qua: il patriarcato, il ruolo della donna nella società, la repressione intesa più a livello profondo che non a quella banalmente poliziesca, no? O militare. E quindi c'è questo qua, Mystery of Organism, tradotto in inglese, non so se hai... No. I misteri dell'organismo, che era proprio il film manifesto di questa sua idea, che prende appunto da Reich, da Wilhelm Reich. Bene, tra l'altro, secondo me, comunque, Makhachev ha anche riscosso tanto successo dal punto di vista internazionale, non perché non fosse bravo, però ha avuto la fortuna di fare tantissime coproduzioni, le sue sono quasi tutte coproduzioni. Ma perché lui non poteva, a un certo punto non faceva più i film in Jugoslavia, cioè li faceva all'estero, perché è stato un po' emarginato, ma molti di questi registi sono stati censurati di questa onda nera, e alcuni film erano per anni sono stati chiusi in quello che chiamavano il bunker, che poi non so, sarà stato un qualche archivio dove venivano messi i film indesiderati, cioè, nascosti, archiviati, sì. E poi sono stati tirati fuori chiaramente negli anni poi 90 e 2000. Quindi Makhachev, Zhilnik, e poi citerei anche Živojin Pavlovic. Abbiamo visto, Valentino, un film insieme di Pavlovic, è quello che si chiama Kabud e Mrtavi Beo, quando sarò morto e bianco. Io russavo, però. Ah, ok, quindi l'ho visto da sola, me ne rendo conto solo adesso. Sì, è un noir abbastanza pesante di questo. Ma in qualche modo è contemporaneo, perché parla di un personaggio che è in cerca di successo facile, di soldi facili, cercando di spacciarsi per cantante pop folk, cioè quel genere che andava in quegli anni nella ex Jugoslavia. E fa di tutto, si prostituisce un po' come gli viene, cantando, non ha talento, ha solo grinta, è pronto a tutto, urla un po' a caso, esatto, però all'inizio gli riesce, poi c'è, adesso è disposto a tutto per il successo, un po' attuale, no? Sì, vabbè, molto attuale, la società dello spettacolo, i reality eccetera, i vari talent show e queste come cose, no? Qua, no? C'è è iniziato il Grande Fratello in Italia, purtroppo, quindi di nuovo non ce la scolleremo mai. Che ci dobbiamo fare? Non sapevo niente, per fortuna. Va bene, allora andiamo a ascoltarci il prossimo pezzo. Il prossimo pezzo, tra l'altro, è un'introduzione al prossimo tema che affronteremo, che è quello dei film partigiani. Questo in particolare è proprio un estratto dal film Walter brani Sarajevo, ovvero Walter difende Sarajevo, di cui andremo a parlare più tardi. Loro sono gli Zabranjeno pušenje. Merkwürdig. Seit ich in Sarajevo bin, suche ich Walter und finde ihn nicht. Jetzt, wo ich gehen muss, weiß ich, wer er ist. Sie wissen, wer Walter ist? Sagen Sie mir sofort seinen Namen. Ich werde ihn Ihnen zeigen. Sehen Sie diese Stadt? Das ist Walter. Defenestrazioni, sì. Rimarremo solo io e Stefano alla fine. Io rientro chiedendo chi è Walter. Prima ho letto un certo Walter con la V, cioè mio padre si chiama Walter con la V, però allora, mi sa che questo... tuo padre Walter. Ciao, con papà. La V. Ciao papà di Federico. Però questo Walter credo sia qualcun altro. E questo Walter è qualcun altro. Adesso andiamo a spiegare chi è Walter. Intanto abbiamo ascoltato, oltre all'introduzione proprio degli Zabraniano Pushkin, era un pezzo proprio tratto dal film Walter Brani Sarajevo, uno dei pezzi finali in cui si vedono questi due comandanti sulla collina. Il pezzo invece era Neću da budem švabo, ovvero non voglio essere un crucco, proprio perché i crucchi, soprattutto in questo filone partigiano, sono sempre cattivi, c'è poco da fare. Vabbè, perché era così, però è vero anche che poi si è radicata questa idea che i tedeschi era un popolo di mostri in realtà, sì. No? Però il nome crucco è bello. Sì, sì, no, beh, il crucco pezzo dovrebbe derivare, se non sbaglio, ma qua qualcuno può anche dirmi che no, non è vero, non è così, ma sentiamo. Io accetto. Ho sentito dire, quindi non ci metto le mani sul fuoco, che derivi da kruh, pane in croato. Quindi ecco, confermano confermano gli intellettuali della redazione del comitato censura. Ma c'è, sta leggendo però, Benissimo. Sì, quindi perché pare che mangiassero molto pane bello. Nell'impero austro-ungarico probabilmente, che ne sì, so. Sì, sì, penso che sia quello il motivo. Sì, e comunque chi è Walter? Se lo chiedono anche, se avete sentito, chi di voi sa il tedesco, questi comandanti sulla collina, no? Wer ist Walter? Chi è Walter? Due ufficiali tedeschi che non riescono a prendere questo fantomatico Walter. Fortissimo. Esatto, alla fine una delle scene finali è questo comandante sulla collina che indica la città sottostante di Sarajevo e dice Das ist Walter, è questo Walter. Quindi Walter in realtà è la città di Sarajevo, sono tutti gli abitanti di Sarajevo. Das ist Walter, oppure appunto Wer ist Walter, Das ist Walter è un po' una come diciamo un mantra che si ripete anche durante le guerre degli anni 90, perché è uno slogan sì, che è stato ripreso durante come Charlie durante la guerra di Vietnam, no? Ma in questo film c'è un Walter, però c'è uno che si chiama Walter. Eh no, sì, sì, è un nome di battaglia. Ah, un nome di battaglia. Sì, ah no, sì, pensavo sì, magari c'era un comandante che si chiama Walter, però la città poi diventa Walter. No, tutta. È un nome di battaglia, tra l'altro pare che sia uno dei nomi di battaglia, uno delle decine dei nomi di battaglia di Tito. E oltretutto così dicono. Ma in realtà c'era un Walter veramente. Ah, ecco, infatti è quello che dico. No, è basato su un fatto vero, la storia di Walter, cioè era uno che un leader della resistenza che si occupava più dei diciamo delle operazioni da servizi segreti, non era sul campo, ma dava supporto logistico, controspionaggio, eccetera. Però poi il suo nome è diventato un qualcosa di con significato più largo, cioè con la resistenza Walter, la città. Ma questo nel film, nel senso che i partigiani hanno un consenso talmente totale, no, che sono tutti nemici, non si può prendere il Walter dal momento che hai un'intera popolazione contro, no, che lo copre. No, è una roba quasi un po' zapatista, tipo i zapatisti del Chapo, diciamo, somos todos Marcos, siamo tutti Marco, perché c'è l'identità celata del loro subcomandante. È un accento spagnolo, guarda. Parliamo del tuo inglese, allora. Ma io non ho ancora detto niente in inglese, per fortuna me ne guardo benissimo. Io mi ci butto, allora. E quindi, vabbè, oltretutto, tra l'altro... No, volevo finire. Poi questo Walter qua, un eroe di guerra, è morto nel 45 per difendere una centrale elettrica dal un sabotaggio degli Ustascia, dei collaborazionisti croati. Sì, doveva guidare questa operazione per salvare la centrale. Questi, nella disfatta, cercavano di distruggere più cose possibili. Ed è morto nel 45, per l'ultima battaglia. Sì, sì. Si chiamava Vladimir Peric. Esatto, Vladimir Peric, sì. Era originario di Prepoli, nel San Giaccato, e aveva appunto, come dicevi tu, straordinarie doti organizzative, una grande esperienza con attività clandestine. Tra l'altro la struttura energetica di cui parlavi prima, sì. Cosa hai detto della struttura energetica? Una centrale elettrica forse. Esatto, pare che poi tra l'altro sia stata proprio intitolata a lui. A Vladimir Peric. Ok. Invece il film Walter Brani Sarajevo è di Khairuddin Shiba Krvavac. Sì, Khairuddin Krvavac, che è questo regista che ha riformato il genere rendendolo più fruibile, più un genere di azione, non più solo ideologico, retorico, drammatico, più commerciale, per un pubblico più spettacolare, esatto, meno ideologia, più azione, più situazioni veloci, insomma, tante esplosioni. Quindi che potrei vedere pure io che sono ignorante. Assolutamente, ci puoi trovare un po' di western, ci puoi trovare un po' di addirittura. Allora me lo segno, così lo guardo. Sì, sì, sì, Walter difende Sarajevo. E lo faccio vedere a mio padre. Così si sente protagonista. Esatto, protagonista per una sera. Khairuddin Krvavac, poi ha fatto altri film, Partisan Balkanska Eskadrilla, sulla formazione delle forze aeree jugoslave, anche lì battaglie aeree, sì, sì, quindi sempre tante esplosioni. No, era un tipo forte questo Krvavac. Invece un altro colossal sulla seconda guerra mondiale è la battaglia di Neretva, tradotto anche in italiano. Sì. Questo l'hai visto tu, Antonio? Sì, questo l'ho visto, è, come hai detto te, è un film più, anche questo più commerciale, anche se c'è dell'ideologia, perché è ambientato durante la seconda guerra mondiale, durante la guerra partigiana e in particolare la battaglia di Neretva. È un colossale epico proprio, ci sono grandi attori, tra i più famosi dell'epoca, come Yul Brynner, Orson Welles, sì. Franco Nero, ne parlavamo prima. Non mi ricordo chi ha interpretato Tito, forse fa una comparsa. No, mi sembra che Tito non faccia una comparsa. Io sto confondendo. Lo nominano solo, credo. Lo sto confondendo con la battaglia di Sutjeska, fatta qualche anno dopo, un po' meno riuscito. Sì. No, dove è interpretato da Richard Burton. Tito. No, lì Tito viene nominato, impartisce gli ordini un po' nella cabina di regia, però non viene mai mostrato. È un film bellico, quindi ricco di scene d'azione, esplosione, in particolare poi si sviluppano ovviamente le storie dei singoli personaggi. È un film anche corale da quel punto di vista, perché vengono presentati tanti personaggi. Come dicevi te, l'ideologia c'è, sono sempre i tedeschi cattivi, però in parte, come dicevi te prima, rispecchia la realtà, perché in fondo così era. Quel momento storico, in quel istante, sì. Chiaramente. Sì. Sì, c'era anche questa scena del ponte, molto una parte consistente del film incentrata sulla distruzione del ponte, che doveva dare un segnale falso ai tedeschi. Esatto. Che era una trappola. Andare verso nord, invece loro decidono di attraversare il ponte distrutto, improvvisandone un altro fatto di assi, di legno, tipo. Sì. Con tanti feriti che cadono nel fiume gelido. Sì, è una scena molto simbolica. Il personaggio poi di Yul Brynner dirà: ho fatto esplodere questo ponte, spero che dopo la guerra però di costruirne tanti altri. Insomma, c'è anche, se vogliamo, un po' di retorica, un po' di buonismo di fondo, però è un film che tutto sommato si lascia vedere, ecco. Okay. I ponti sono sempre una metafora strausata. Sì, nei Balcani, si presta benissimo. A me interessa, io sono ingegnere, quindi nel senso, devo vedere come ha fatto sto ponte, perché non ha messo in sicurezza sicuramente, se sono morti tanti costruendolo. Non solo, tra l'altro, sono poche ore per farlo. Nella preparazione di questo film sono stati utilizzati non so quanti mila miliardi di cannoni veri, sì, piuttosto che... Sì, c'erano i mezzi dell'esercito che sono stati utilizzati, le armi vere, i carri armati, sì. Poi un ponte è stato distrutto veramente, cioè lì non badavano le spese. No, ma infatti non conosco il budget, credo sia stato molto alto, ecco, la produzione penso avesse un budget molto alto. Sì, penso alto che una parte del debito jugoslavo sia da imputare anche la battaglia di film. Diciamo che hanno risparmiato moltissimo sugli attori, perché hanno utilizzato quelli che i soldati che facevano la leva, per è cui vero. Hanno risparmiato. E quindi è realistico al 100%. No, ma è molto realistico, non è il classico colossal, si può pensare un po', come dicevo, retorico. Ci sono alcune scene, ripeto, quella del ponte, però tutto sommato è un film realistico, ecco, non indugia troppo. Speriamo non sia morto nessuno veramente. No, quello spero di no. Speriamo no. Non credo proprio. Questo non mi risulta tra i vari anelli. Non è tipo Indiana Jones dove sono morti. È vero. So quanti... È un po' maledetto. Peraltro il nostro radioascoltatore, che salutiamo, ci suggerisce: in Walter Brani Sarajevo c'è una comparsata di un giovanissimo Kusturica. Io non me lo ricordo perché l'ho visto tanto tempo fa, però è possibile che sia così. Allora ragazzi, che ne dite di andare ad ascoltare il prossimo pezzo? Il Dai. Prossimo pezzo nessuno se lo aspetta. Cosa abbiamo? Abbiamo niente poco di meno che Adriano Celentanovic. Poi ci spieghi perché. Sì, Adriano Celentano con 24.000 baci, ma ve lo spiego dopo. Baci, oggi saprei perché l'amore vuole un istante. dette bugie meravigliose, frasi d'amore appassionate, ma solo baci chiedo a te. Con 24.000 baci, così frenetico è l'amore, in questo giorno di follia, ogni minuto è tutto mio. Niente bugie meravigliose, frasi d'amore appassionate, ma solo baci chiedo a te. Yeah, yeah. Con 24.000 baci, così freddi per amore, in questo giorno di follia, ogni minuto è tutto mio. Con 24.000 baci. Non c'è bisogno di commentare questa canzone sicuramente, però dobbiamo dare una spiegazione ai nostri radioascoltatori che si chiederanno: ma questi sono impazziti? Forse non tutti sanno che questa è una delle colonne sonore portanti di uno dei primi film di Emir Kusturica, Ti ricordi di Dolly Bell, un Adriano Celentano che a quel tempo rappresentava quello che di più rock c'era. Eh sì. E adesso il molleggiato era proprio oltretutto alla fine degli anni 60, negli anni 60 in generale tutto quello che veniva prodotto in Italia dal punto di vista musicale era un punto di riferimento importantissimo per la scena musicale jugoslava, per cui appunto insomma Adriano Celentano non è l'unico sicuramente in questo film, rappresenta un'evoluzione rispetto al passato dal punto di vista musicale, no? Sì, diciamo c'è questo grande cambiamento dei costumi, sì. Le sottoculture legate al rock and roll, alla diffusione del rock and roll, quindi il ponte verso l'Occidente era l'Italia, chiaramente c'erano più contatti. Beh, vicini di casa alla fine, sì. Quindi era tra tutti, graficamente, verso il mondo occidentale sicuramente il posto c'erano più punti vicino. Contatto diretti anche tipo Radio Capodistria, Televisione Capodistria, che guardavano da entrambe le sponde, poi di là si vedeva la Rai, segnale attraverso l'Adriatico arrivava. Allora tu guardavano Carosello, può darsi. No, certo, ci sono molte influenze dall'Italia negli usi, costumi, addirittura c'è gente all'epoca, penso di più oggi, non so, che imparava anche, non dico la lingua, però insomma familiarizzava con la lingua italiana tramite la televisione. Esattamente, quindi 24.000 baci, che appunto fa parte della colonna sonora di Ti ricordi Dolly Bell? Dicevamo prima, è forse il primo film di Kusturica. Sì, forse uno dei primi, comunque, come dicevi te, quando aveva ancora gli sceneggiatori bravi che lo aiutavano a fare dei bei film. Esatto, perché lo sceneggiatore, ricordiamo, di C.S. Lewis e Dolly Bell, questo è il titolo originale, è Abdullah Sidran, che è anche lo sceneggiatore di Papà in viaggio d'affari. Tra l'altro consiglio a tutti quanti di acquistare o trovare in biblioteca un libro molto bello che si intitola Romanzo balcanico, proprio di Abdullah Sidran, che riporta tutte le sceneggiature proprio dei due film. È un tomazzo, però è molto molto interessante. All'interno ci sono anche vari saggi sul cinema jugoslavo e su tutta quella che è la nascita e la cultura in quel paese. Cosa cosa ti ha colpito di più di ti ricordi Dolly Bell? Ma ti ricordi Dolly Bell? È bello vedere che poi diventerà uno dei marchi di fabbrica, ecco, di Emir Kusturica, mischiare vari generi, quindi è sempre in bilico tra la commedia, l'aspetto più drammatico, e poi era bella rappresentazione di questi due mondi che entrano in contatto, quello occidentale, quello attraverso la storia di questo ragazzo e della sua, diciamo, emancipazione sessuale e via dicendo. È un film che poi è incentrato su quello, forse più e poi sì, ti ricordi Dolly Bell? Purtroppo l'ho visto quando non è il primo film di Kusturica, probabilmente, ma non è il primo film che ho visto di Kusturica, quindi ero già un po' lo conoscevo, ecco, quindi il prevenuto? Prevenuto no, però sapevo un po' quali erano le caratteristiche, ecco, del cinema di Kusturica. Il primo film che ho visto è stato Underground, poi ho dovuto un po' andare avanti e indietro nel tempo per ripescare gli altri film. Ma lui si dice che si ispira molto a Fellini, no? Forse lo diceva anche lui personalmente, adesso non mi ricordo, viene accostato a... Può essere che ci sia sicuramente l'aspetto, come possiamo definirlo, onirico, ecco, del sogno in alcuni film, in Underground ad esempio, o anche nel, è un film che meno, forse quello meno jugoslavo, nel senso che non è una produzione jugoslava, il valzer del pesce freccia Arizona Dream, quello ha molte sfumature di Fellini, secondo me. Poi andando avanti col tempo, gli ultimi lavori che leggo qua, come ad esempio La vita è un miracolo, sono stati un po' deludenti dal mio punto di vista. C'è stato il documentario su Maradona, però anche quello esula un po' dal suo stile. Non sono perso. L'ultimo film da regista, quello di Maradona. Sì, è un docufilm, non so come definirlo, dove ha girato insieme a Maradona per il mondo, dall'Argentina in Italia, anche venuto. Ha fatto anche un film collettivo di alcuni registi, 7 giorni a Cuba, no? Sì, mi sembra di sì, un episodio forse diretto da Kusturica. Sì, è anche lì un po', non è, sì, vabbè, boh, carino, però niente di che, cioè un po' lui interpreta una sorta di luogo comune dell'uomo balcanico, un po' rude, un po' approssimativo, sì, con la moglie che gli rompe i coglioni. È vero. Torna a casa. Sì. No, il meglio so, l'hai visto? L'ha dato. Sì, forse l'ho visto quello, non sapevo, o forse mi sono dimenticato che un episodio era diretto da Mirko Sturica. È vero. C'è lui che interpreta anche, cioè interpreta se stesso in pratica. È vero. No, comunque personalità dirompente, forse fin troppo. Sì, no, è un regista che, come dire, entra direttamente nel film, non è un regista di, cioè, almeno mi capita di capire subito che è un film di Kusturica, ecco, senza sapere che è lui il regista. Una personalità estrosa. Sì, io volevo dire due cose su Kusturica, velocissime. Una positiva e una negativa. Mi piace moltissimo il rapporto che ha Kusturica con gli animali nei film, che prendono ricorrente, che prendono, sono umanizzati, che tra l'altro forse ha ripreso già da Makaveyev e da Tsarnitalas. Ci sono questi gatti neri, gatto nero, gatto bianco, il gatto nero che c'è già in Makaveyev, quello della scena epica con la donna nuda col gatto nero sulla schiena. Sì. E ovviamente anche il Maestro e Margherita. Questa è la cosa positiva. La cosa negativa è che non riesco più a riconoscerlo come regista dopo le sue ultime uscite politiche che ha fatto, perché è diventato un nazionalista proprio dei più beceri. Sì, è grande amico di Dodik, il presidente, non so se è ancora, di Repubblica Srpska, no? È un conservatore, un uomo di destra, così, di destra nazionale, sì, populista, diciamo. Viene da chiedersi sempre con Kusturica, come con ad esempio, non so se lo conoscete, come Lars von Trier, che è un regista danese, dove fanno queste uscite, era quello che a Cannes aveva detto io sono contro gli ebrei. Bisogna chiedersi quanto sia una provocazione, quanto realmente poi nel caso di Lars von Trier non lo so, di Kusturica lì è più una sparata, di Kusturica mi sa che lo pensi veramente. Sì, no, lui effettivamente è diventato quasi l'ideologo di questa corrente politica. Va bene, allora andiamo a ascoltarci di Goran Bregovic, proprio dalla colonna sonora di Underground, Ring Ring Raya. Leggevamo nei commenti che ci sottolineavano l'aspetto sia onirico di Kusturica, ma anche il vitellonismo, ed è vero, perché soprattutto in Dolly Bell, Vitelloni è un film di Federico Fellini, dove ci sono questa banda di attori, è un film italiano, è ambientato nella Romagna, sulle coste romagnole, dove è diventato poi un termine fare il vitellone o il vitellonismo di personaggi che fanno la bella vita, molto sfrontati da un punto di vista sessuale anche, e il fascino di questa vita, è vero, si vede anche, colpisce il ragazzo protagonista di Ti ricordi di Dolly Bell, quindi sicuramente quell'influenza di Fellini c'è in Kusturica. Benissimo, sì. Allora andiamo avanti con un altro pezzo, che è Snatechnia Zora Svice, che si riferisce a un film del 2003 di Pier Žalica, che si intitola Gori Vatra, in italiano tradotto con Benvenuto Mr. President. Questa è una delle colonne sonore appunto del film. Snatechnia Zora Svice. Se nižu moji dani kao biseri, kao biseri, jer na kraju puta moga stojiš samo ti, stojiš samo ti. Pusti neka srce govori, pense Sun Tzu e a nižu moji dani kao biseri kao biseri jer na kraju puta moga stojiš samo ti stojiš samo ti pusti neka srce Tešnja Zora Svice, appunto di Igor Ivatra, benvenuto Mr. President, un film nella migliore tradizione jugoslava, una vera e propria commedia perché ha del tragico e del comico. È un film del 2003 ma ambientato nel 95 nella piccola cittadina bosniaca di Tešanj, che viene sconvolta dalla notizia dell'imminente visita del presidente statunitense Bill Clinton. In pochi giorni quindi gli abitanti dovranno far sparire odi etnici, genocidi e corruzione che dilagano nella comunità, fingendo di essere in pace e armonia per rattrarre il presidente ed uscire da questa situazione di indigenza. Sono molti appunto gli spunti comici, il più noto quando sulla bandiera degli USA prodotta per addobbare il paese vengono cucite delle stelle rosse. Fantastico, è uno dei miei film preferiti in assoluto. Parallelamente c'è la storia tragica di un uomo che ha perso il figlio in guerra, su cui non diciamo nient'altro perché se sì. Volete andarvelo a vedere merita davvero, poi tra l'altro è stato tradotto in italiano, per cui si non può trovare. Si trova senza nessun problema. Allora andiamo ancora avanti. Voi l'avete visto questo film? Io no. Ho sentito parlare bene anche, però non l'ho visto purtroppo. Va bene, allora compitini a casa. È vero. E, guardatevi Igor Ivatra, benvenuto Mr. President. Va bene, quindi questo ve lo siete persi, però avete visto un altro film che parla di guerra, degli anni 90, che è Pretty Flames, in inglese. Ecco, teniamoci la versione in inglese. In italiano, credo non sia stato tradotto in italiano. No, il titolo originale è Le Pastella alle Pogore, cioè i bei villaggi bruciano bene. L'avevate consigliato da noi questo film, mi ricordo. Sì, l'abbiamo menzionato, sì, quando siamo venuti in trasmissione all'Occhio al Cinema. Come ti sembrava? Rispecchia fedelmente quello che diceva Valentina, cioè questo il fatto di mettere insieme il tragico e invece l'aspetto più ironico, quasi comico. E l'altro aspetto di questo film interessante è quello legato proprio al come tecnicamente è stato montato questo film, cioè pieno di flashback, perché è la storia di due fratelli, se non sbaglio, amici. Due amici che si troveranno da amici, appunto, poi a dover combattere l'uno contro l'altro, però il tutto è visto attraverso scene a volte comiche, a volte molto tragiche, e alla fine il risultato finale è convincente, ecco. Ma tu hai trovato degli elementi horror in questo? Ma ci sono degli elementi, ad esempio le scene iniziali in cui viene tagliato il nastro del quando inaugurano il tunnel, mi sembra un c'è il funzionario che si taglia la mano cercando di tagliare il nastro. Sì, questi aspetti grotteschi, veramente un po' surreali, simbolici, è vero. Anche verso la fine, che preludono alla catastrofe, quando dentro, non so se ti ricordi, dentro il tunnel entra la maestra delle elementari, sì. Quello anche è un po' orrifico, sì, massacrata, è vero, è vero. Che loro in una situazione ovviamente sono chiusi da giorni ormai, l'equilibrio mentale cede, pensano che sia un fantasma, sì. Poi c'è questa situazione in cui cominciano a delirare, non c'è sì, veramente molto è simbolico, proprio a simboleggiare appunto il fatto surreale di tutto il conflitto, è un po' a volte il non avere senso, ecco, delle situazioni che si vengono a creare, sì. Però da un certo punto di vista è interessante questo, il fatto di trovarsi da un momento all'altro nel bel mezzo di un conflitto, appunto non è sempre il solito film di guerra, un po' stucchevole, come poteva sì. essere La battaglia di Neretva, di cui abbiamo parlato prima. Sì, un altro genere, tra l'altro è del 96 il film, quindi sì. soltanto un anno dopo insomma la fine dei conflitti, diretto da Srđan Dragojević, che è uno, per quanto mi riguarda, dei migliori registi contemporanei. Addirittura. Sì, l'ha dimostrato con questo film in particolare. Ma questo sì, questo è sicuramente questo uno dei più riusciti. Questo penso sia il migliore dei suoi. Poi ci sono altri. Ma ci sono dei filmetti. Gli altri sono dei filmetti, ma sono riusciti come filmetti. Sì, c'è Minismo Angeli, non siamo angeli. È un filmetto, ma nelle nostre fantastiche, nei nostri sondaggi era ai primissimi posti, per cui poi alla fine bisogna vedere un po' che cosa intendi tu per riuscito. I soldi se li hai fatto proprio sicuro, per i quarantenni nostalgici che hanno vissuto un bel periodo negli anni 80 in quel paese. E anche Parada è un film che ha ottenuto molti consensi. Vabbè, quello è uscito nel momento giusto, al posto giusto, Parada, però dei diritti dei gay, proprio dopo che è andata a male il tentativo di fare una legge. La parete, semplicemente la parete. Un gay pride, sì. Esatto. Ok. Ma tornando, abbiamo ancora tempo, un minuto o due? Il tempo stringe. Il tempo stringe, ragazzi. Puoi dirlo in due parole? Cosa dovevi dire? No, io volevo chiedere a lui ancora di... Ne hai detto un sacco di parole. Pretty Villages, Pretty Flames. Vai, parla veloce. C'è questa figura dell'orco che viveva quando... È vero, no? I bambini avevano paura. Shrek. Sì. È un po' anche quello un simbolo, il male che viene risvegliato. È vero, sì, il male che poi non è rappresentato con un'immagine vera e propria, ma aleggia, sì, come il vero conflitto, come in tutti i conflitti alla fine, dove il nemico non è sempre qualcosa di facilmente individuale, sì. È tangibile. Esatto. Comunque io volevo solo dire che l'ho fatto vedere ai miei studenti all'università e sono usciti tutti con le lacrime agli occhi. È stato un momento davvero davvero interessante vedere le loro reazioni, le reazioni di chi lo vedeva per la prima volta e anche di persone che comunque in qualche modo sono legate a... Per quel motivo, sì, emotivamente avranno genitori, cioè maggior parte di quelli che hanno seguito il corso venivano da lì, no? Certo. No, infatti. Comunque Comunque, bel film. Andiamo a ascoltarci la prossima canzone, che è dei Party Breakers, si chiama Hilda Dugodin. È un live, un live. Finalmente un po' di rock and roll. Dopo 24.000 baci, infatti, questa è una delle colonne sonore del film Caraula del 2006 di Rajko Gorlić, uno dei primi film appunto girati dopo la dissoluzione della Jugoslavia, dopo la dissoluzione della Jugoslavia, al cui interno sono rappresentate sia appunto i soldati dalla Serbia, dalla Croazia, dalla Macedonia, dalla Slovenia, dalla Bosnia Erzegovina, okay, quindi da tutta la federazione, ed è appunto un film girato secondo il libro di Ante Tomic, Ništa nas ne smije iznenaditi, ovvero non, niente ci può più sorprendere. Carino, un film molto molto carino. Una delle scene iniziali del film, ci sono appunto questi due soldati che dopo aver cambiato la scritta sul muro della caserma in cui c'era scritto una frase legata a Tito, loro hanno invertito le lettere e hanno scritto Electrici Orgasm. Il loro gruppo preferito, sì, un gruppo New Wave. Per cui poi sono stati ovviamente puniti dal comandante, e insomma questa è una delle canzoni che ascoltano con un Walkman scassato sulla collina, Hilda Dugodin. Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go piacere vicino ad un codera. Watch your spot, watch your sway. Watch your spot, watch your sway. Niente un po' si rimane a tre vicino ad un codera. E allora questa era Hilda Dugodina dei Party Breakers, era un live dell'88 addirittura al SCZ di Belgrado, uno dei locali, diciamo, della scena underground più famosi, forse il più famoso in assoluto. E allora siamo giunti davvero al termine, purtroppo, della puntata odierna. Vogliamo soltanto ricordarvi i risultati del sondaggio che abbiamo condotto all'interno del nostro gruppo di Balkan Rock. I nostri radioascoltatori hanno votato i loro film preferiti della produzione jugoslava e post-jugoslava. Allora, abbiamo sicuramente al primo posto Underground, meritatamente, credo, perché sappiamo che è un film che ha fatto storia. Al secondo posto Koto Tamo Peva, un film dell'80, molto molto molto divertente, se non l'avete visto guardatelo. Al terzo posto Le Pastella Le Pogore, sì, film di cui abbiamo parlato prima. Al quarto posto Minismo Angeli, quindi terzo e quarto posto tutti e due di Dragojevic. Quinto posto Prima della pioggia di Mancevski, di cui avete ascoltato appunto la colonna sonora di Anastasia. Poi abbiamo Stevie Camion, Cervene Boie al sesto posto, Balkanski Spion all'ottavo, Marathon Sitrce Pochasni Krug, Siecesli Sedolibel un po' verso la fine. Poi abbiamo No Man's Land, Papà in viaggio d'affari, Benvenuto Mr. President, Gatto Nero Gatto Bianco, sempre di Kusturica. Verso gli ultimi posti abbiamo Vargli Voglieto 68, La battaglia della Neretva, Un affare di cuore, Mister Organisma e insomma altri, eccetera, purtroppo, eccetera. Purtroppo non li possiamo citare tutti perché insomma ci vorrebbero tantissimissime ore di trasmissione. Io voto No Man's Land perché è l'unico che ho visto. Purtroppo va bene, tanto il tuo voto comunque lo fa salire nelle allora classi. Guarderò Underground, dato che tutti dicono che è il più bello, quindi magari è sicuramente rappresentativo. Sì. È sicuramente rappresentativo. Allora, io vorrei ringraziare appunto i nostri amici di Occhio sul Cinema, grazie mille di esserci venuti a trovare. E ricordiamo di ascoltarci il giovedì sera dalle 21:30 alle 22:30. E vi ringraziamo di averci ospitato. Grazie. Ma venite quando volete, insomma, se no io mi sento sempre sola. Sicuramente torneremo a parlare di cinema, visto che oggi abbiamo dato solo un assaggio, diciamo. E se qualcuno vuole suggerire qualche film da trattare, ci trova su Facebook la pagina Occhio sul Cinema, quindi può contattarci. Se vuole venire ospite per collaborare a recensire qualche film, lancerò delle proposte sicuramente. Va bene, allora noi insomma avete i nostri contatti, ci trovate su Facebook, il nostro gruppo Balkan Rock at My Radio. Chiudiamo in bellezza con un pezzo dal film Nafaka del 2006 del regista Jasmin Durakovic. Il pezzo si chiama Kad Procvatu Behari ed è della nuova formazione degli Zarbanjan Opušeni Sarajevesi. Doviđenja svima. Doviđenja.